soffia forte, troppo forte. Leggiamo libri e guardiamo vecchi film, movimenti silenziosi. Qualcosa di importante, è importante ogni cosa, siamo distrutti, perché ridi, le immagini parlano con me, perché ridi.